America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, devo dire, ieri non è stata una giornata molto positiva per Donald Trump, ma credo anche che il presidente si stia abituando al fatto che, beh, tutto sommato, le buone notizie si alternano alle cattive, e le cattive quando arrivano bisogna prenderle un po' con filosofia, non bisogna necessariamente reagire in modo aggressivo o sopra le righe. E ieri, in effetti, per Trump non è stata una delle giornate migliori su due fronti. Sentiamo la prima notizia. The original travel ban was a debacle overturned by the court. Now, round two, blocked before it takes effect. This is a black eye on the White House. There's no other way to put it. It's a bad time for them. Ecco, avete sentito, la prima notizia riguarda il Muslim ban. Beh, c'è stato un giudice delle Hawaii, Derek Watts, che aveva già preso in visione, aveva già deciso di esaminare il caso del nuovo ordine esecutivo, il secondo ordine esecutivo di Donald Trump contro cittadini di sei nazioni prevalentemente musulmane: Libia, Iran, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Ecco, questo secondo ordine, ve ne ho parlato tempo fa, doveva in qualche modo essere più moderato, doveva essere accettabile e non anticostituzionale. Ebbene, è stato bloccato a livello nazionale proprio dal signor Derek Watts. Tra l'altro è stata una decisione dell'ultimo secondo, perché l'ordine che tra l'altro ha valenza nazionale, quindi vale in tutti gli Stati Uniti d'America, sarebbe dovuto entrare in vigore poche ore dopo, alle 5 del mattino ora italiana, poche ore dopo la decisione del giudice alle Hawaii. Ecco, la motivazione del giudice è stata molto chiara. Quest'ordine esecutivo non è altro se non una discriminazione religiosa che viola la Costituzione americana. E quindi la mossa del giudice Derek Watts, attenzione, giudice nominato da Barack Obama, è temporanea, però rappresenta pur sempre un duro colpo per l'amministrazione Trump, perché il rischio a questo punto è di dover ricominciare da capo. Come ha reagito Trump? Ecco, per questo vi ho fatto questo preambolo in inizio di trasmissione. Beh, ha semplicemente ripetuto quella che è la sua linea. Sentiamo. We're talking about the safety of our nation, the safety and security of our people. The danger is clear, the law is clear, the need for my executive order is clear. Ecco, Trump dice: nei pieni poteri del presidente degli Stati Uniti impedire l'accesso a coloro che ritiene possano rappresentare una minaccia per i cittadini. Non credete anche voi che questa possa essere soltanto una mossa politica? Vinceremo questa causa, andremo fino in fondo, andremo anche fino alla Corte Suprema. Dunque Trump denuncia immediatamente la decisione del giudice Watts come una decisione motivata soltanto da ragioni politiche. Comunque sia, per Trump questo è comunque un passo indietro. Qual è stato il secondo? Sentiamo, perché secondo me questo è anche più grave del primo, in quanto la dichiarazione viene da un suo compagno di partito che si chiama David Nunes, che è il presidente del Comitato dell'Intelligence della Camera. As I told you last week, evidence still remains the same that we don't have any evidence that took place. I don't think there was an actual tap of Trump Tower. Ecco, Nunes qui si riferisce alla dichiarazione esplosiva di Donald Trump, secondo cui Barack Obama avrebbe cercato di origliare le sue telefonate ordinando direttamente alla Casa Bianca di mettere sotto il controllo i telefoni di Donald Trump, questo prima naturalmente che diventasse presidente. Nel momento in cui il presidente della Commissione Intelligence della Camera, come Nunes, dice che, e cito in virgolette, se le affermazioni del presidente via Twitter dovessero essere prese alla lettera, allora Trump si è chiaramente sbagliato. Ecco, direi che è una frase lapidaria questa, perché rimette tutto in proporzione. Una curiosità, in realtà una fuga di informazioni personali su Trump ieri effettivamente c'è stata. Questa volta però non c'entrano i russi né c'entra la CIA, c'entra invece un premio Pulitzer, David K. Johnston, che ha rivelato le dichiarazioni fiscali di Donald Trump nel 2005. Quanto ha guadagnato Trump nel 2005? 150 milioni di dollari, pagando 38 milioni di dollari al fisco. Ecco, la Casa Bianca, che rifiuta di pubblicare queste dichiarazioni al reddito del presidente americano, ha confermato che si tratta di cifre veritiere. Però prima la Casa Bianca e poi direttamente Donald Trump nell'intervista alla Fox News è stato molto aggressivo. Ha detto: un furto di informazione, la pubblicazione di queste informazioni è illegale. Questi sono dei furti che vengono commessi ai danni del cittadino, devono essere perseguiti, scopriremo il colpevole. Earlier today the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point bringing it to 1/4 to 1/2%. Bene, passiamo a un'altra notizia economica importante. Vi ho detto già da alcuni giorni che la Federal Reserve avrebbe deciso un aumento dei tassi di interesse portando la banda di oscillazione sui fondi federali, cioè i tassi interbancari fra lo 0,75 e l'1%. Ebbene, è successo, come avete sentito dal newscast, il Federal Open Market Committee della Federal Reserve, dunque il comitato monetario, ha deciso di introdurre una nuova banda di oscillazione fra lo 0,75 e l'1%, un balzo di 25 punti base. Ecco, cosa succede però nel momento in cui aumentano i tassi? Paura da parte dei mercati, panico, preoccupazioni. Vi ricordate che ci fu un'epoca in cui ogni volta che si faceva appena un accenno al fatto che potessero aumentare i tassi di interesse, i mercati precipitavano, i mercati si squagliavano. Ecco, in questo caso non è stato così. I mercati hanno festeggiato addirittura con l'indice Dow Jones che ha chiuso a più 0,54%. Ecco, ma non c'è stato solo l'aumento di ieri, c'è stata anche una conferma da parte della Yellen che nel 2017 ci saranno 3 rialzi complessivi e che le politiche di Donald Trump non sono in contrasto con quelle della Banca Centrale Americana. Ecco, questo era un commento dovuto perché non tanto tempo fa alcuni giornali americani dicevano che la Yellen remava contro le politiche di Donald Trump perseguendo in questa fase aumenti dei tassi di interesse. Come vediamo, i mercati sono sempre misteriosi. Il giorno in cui c'è l'aumento, beh, come vuole la prassi, sulla notizia o si compra o si vende. In questo caso si è deciso di comprare. La Yellen ha usato anche toni positivi parlando di Donald Trump, ha detto di averlo incontrato insieme al segretario al tesoro Steven Mnuchin e di Mnuchin ha detto di aver avuto una buona discussione sull'economia e sugli obiettivi, soprattutto quelli che riguardano le regole. Ma ha espresso però dubbi sulle aggressive politiche fiscali che sono in cantiere al presidente americano perché dice, beh, dovremo vedere davvero come andranno le cose quando poi queste azioni saranno messe in opera. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è stata una piccola polemica ieri nel mondo musicale perché il rapper americano Snoop Dogg nel suo ultimo video ha inserito una scena in cui lo si vede sparare, usa una pistola giocattolo e spara contro un Donald Trump che è vestito da clown. Il presidente non ha resistito, naturalmente ha usato Twitter e ha detto, ma guardate questo Snoop Dogg, intanto è uno che ha la carriera in declino, ecco, tipico di Trump. Tra l'altro, se avesse puntato e usato una pistola contro il presidente Obama, beh, adesso sarebbe già in prigione. Invece con me non gli succede nulla. E dunque di Snoop Dogg, cantautore nelle cronache, vi faccio ascoltare Lavender. My dogs don't bark but they get off. Fuck around and get your whole face bit off. Sinister, spit truth like a minister. So until I'm a monster. When it's the right time, night time. Nigga trying to creep and keep from dying in these motherfucking streets. Fuck the police. From a black man's point of view. Spray that shit, say that shit. We right in front of you, each and every one of you. I'm not gonna tell y'all niggas what we gonna do. But whatever y'all did, put two on it. And put a foot on your neck with a shoe on it. Resident Evil, it's all on camera and they still don't believe you. Clowning around, don't come your clown ass round here, nigga, you gon' get down. Real talk, I'm leaving all you clown ass niggas outlined and show. Stay black, pay back, from way back. I'm the homie, but the motherfucking homie don't play that. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!